che non va da noi non è il numero delle scorte, è tutto il sottobosco delle tutele cosiddette. Lei sa che noi abbiamo quattro tipi di scorta, una più importante, più imponente, che va dalle 2-3 macchine con una decina di uomini per turno, a finire alla tutela. La tutela è qualcosa che per noi è davvero ridicolo, sarebbe un uomo o una macchina non blindata. Allora il ragionamento di fondo è: la persona è da scortare oppure no? Perché se la tutela è una scorta, le posso dire che quella persona che noi mettiamo a fare l'autista, che in realtà è questo, o una macchina non blindata, quindi addirittura pericolosa, è un status symbol, come dicevamo un attimo fa. E pensi che quelle tutele che io adesso sto citando impegnano più di 1500 uomini. Quando dico 1500 parlo solo di coloro che sono fisicamente a fianco della persona tutelata, non si può dire scortata, senza contare tutti quelli che poi si fanno trovare sul posto, perché tutti gli spostamenti dei tutelati e scortati vengono segnalati dalle varie questure per le vigilanze. Quindi ci sono poi le vigilanze che sfuggono al calcolo, le vigilanze su chi si trovano sul posto, le Digos, e moltiplichi almeno questo per ogni spostamento almeno per 5. La maggior parte delle difficoltà che trovano soprattutto coloro che sono addetti alla sicurezza non è tanto garantire la tutela. La maggior parte delle proteste avvengono perché la macchina fa schifo o perché vogliono un altro colore, perché questo non è un gossip, quello che sto dicendo io, è quello che succede realmente. Poi se lei mi chiede invece come vengono assegnate realmente, ci sono tre solo livelli: uno è il Comitato Nazionale, che sono rarissime, uno è la Prefettura sicuramente, che è la più titolata, e uno è l'UCIS, che però una follia ha deciso addirittura di farlo chiudere con l'ultima Family Review. L'UCIS sarebbe un ufficio centrale che si occupava esclusivamente di queste scorte più importanti. Adesso verranno vivisezionate, io onestamente dubito che sia più funzionale